Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Ecco finalmente mia madre, esclamò Albert. Infatti Montecristo, volgendosi di scatto, vide la signora di Morcerf all'entrata della sala, sulla soglia della porta opposta a quella attraverso la quale era entrato il marito, immobile, pallida. Appena Montecristo si volse dalla sua parte, lei lasciò cadere il braccio che, non si sa perché, aveva appoggiato sullo stipite dorato. Stava là da qualche secondo e aveva ascoltato le ultime parole pronunciate dall'ospite. Questi si alzò e salutò con deferenza la contessa, che si inchinò a sua volta, muta e cerimoniosa. Mio Dio, signora, che avete? Domandò il conte. State poco bene, madre mia, esclamò il visconte lanciandosi incontro a Mercedes. Lei ringraziò entrambi con un sorriso. No, disse, ma ho provato una certa emozione nel vedere per la prima volta colui senza il cui intervento ora saremmo sopraffatti dalle lacrime e dal lutto. Signore, continuò la contessa, avanzando con la maestà di una regina, vi devo la vita di mio figlio, e per questo favore vi benedico. Vi sono grata del piacere che mi procurate offrendomi l'occasione di ringraziarvi con la mia benedizione, vale a dire dal profondo del cuore. Il conte si inchinò di nuovo, ma più profondamente della prima volta. Era ancora più pallido di Mercedes. Signora, rispose, il signor conte e voi mi ricompensate troppo generosamente per un'azione semplicissima. Salvare un uomo, risparmiare un tormento a un padre, avere cura della sensibilità di una donna, ciò non si chiama fare un'opera buona, ma fare un atto di umanità. A quelle parole, pronunciate con una dolcezza e una gentilezza squisite, la signora di Morcerf rispose con tono grave: è una fortuna per mio figlio, signore, l'avervi per amico, e ringrazio Iddio che ha così disposto. E Mercedes alzò i begli occhi al cielo con una gratitudine così infinita che al conte parve di vedere brillare due lacrime. Il signore di Morcerf le si avvicinò. Signora, disse, ho già fatto le mie scuse al signor conte per essere obbligato a lasciarlo. Vi prego di rinnovargliele. La seduta si è aperta alle 2, ora sono le 3, e io sono obbligato a parlare. Andate, signore. Cercherò di far dimenticare la vostra assenza al nostro ospite, disse la contessa con lo stesso tono cortese. Il signor conte, proseguì la contessa rivolgendosi a Montecristo, vorrà farci la grazia di passare il resto del giorno con noi? Grazie, signora. Vi sono, credetemi, riconoscente nel modo più profondo per la vostra offerta. Ma questa mattina sono giunto alla vostra porta direttamente dalla mia carrozza e non so come e dove mi abbiano sistemato qui a Parigi. Allora, avremo questo piacere un'altra volta? Ce lo promettete? Domandò la contessa. Montecristo si inchinò senza rispondere, ma il gesto poteva passare per un consenso. Allora, non vi trattengo, signore, disse la contessa, poiché non voglio che la mia riconoscenza diventi inopportuna o indiscreta. Quando Albert ritornò da sua madre, trovò la contessa nel boudoir, sprofondata in una poltrona di velluto. Tutta la stanza, immersa nell'ombra, non lasciava scorgere che qualche sfavillante pagliuzza dorata applicata a qualche vaso o agli angoli di qualche cornice. Albert non poté vedere il volto della contessa. Nascosto sotto la nube del velo che aveva avvolto attorno ai capelli come un'aureola di vapore, ma gli sembrò che la sua voce fosse alterata. Distinse anche fra il profumo delle rose e dei tulipani la traccia aspra e mordente dei sali d'aceto in una delle tazze cesellate del caminetto. Infatti, la vocettina della contessa, tolta dal suo astuccio di zigrino, attirò l'attenzione e risvegliò l'inquietudine del giovane. «Soffrite, madre mia!» gridò entrando. «O vi siete sentita male mentre io non c'ero?» «Io? No, Albert, no. Ma vedete, queste rose, queste tuberose, questi fiori d'arancio emanano ai primi caldi, ai quali non si è ancora abituati, dei profumi così intensi.» «Allora, madre mia!» disse Albert portando la mano al campanello. «Bisogna farli portare in anticamera. Siete davvero indisposta, anche poco fa, quando entraste. Eravate molto pallida.» «Ero pallida, voi dite, Albert?» «Di un pallore che vi sta a meraviglia, madre mia. Ma non per questo ha spaventato meno mio padre e me.» «Vostro padre ve ne ha parlato?» domandò con vivacità Mercedes. Entrò un cameriere, chiamato dal suono del campanello tirato da Albert. «Portate questi fiori in anticamera o nella stanza della toilette», disse il visconte. «Fanno male alla signora contessa.» Il cameriere obbedì. Ci fu un silenzio abbastanza lungo, che durò tutto il tempo in cui il cameriere provvide a portar via i fiori. «Che nome è mai quello di Montecristo?» chiese la contessa quando il cameriere uscì portando via l'ultimo vaso di fiori. «È il nome di famiglia, di una terra, o un semplice titolo?» «È, credo, un titolo, madre mia, e niente di più. Il conte ha comprato un'isola nell'arcipelago toscano e ha, per quanto ha detto egli stesso questa mattina, fondato una commenda.» «I suoi modi sono eccellenti», disse la contessa, «almeno per quanto ho potuto giudicare nei pochi momenti che si è trattenuto.» «Ah, perfetti, madre mia! Anzi, tanto perfetti che superano di molto quanto ho conosciuto di più aristocratico nelle tre nobiltà più fiere d'Europa, cioè la nobiltà inglese, la nobiltà spagnola e la nobiltà tedesca.» La contessa rifletté un momento, poi, dopo una breve esitazione, riprese: «Mio caro Albert, è una domanda da madre che vi faccio, sapete. Voi avete conosciuto il signore di Montecristo in modo approfondito. Siete perspicace, pratico della vita e avete un giudizio non comune per la vostra età. Credete che il conte sia quello che sembra essere?» «E come sembra? Voi stesso lo avete appena detto. È un gran signore.» «Vi ho detto, madre mia, che è considerato tale.» «Ma che ne pensate voi, Albert?» «Io non ho, ve lo confesso, un'opinione precisa su di lui. Credo sia maltese. Non vi chiedo della sua origine, ma della sua persona.» «Ah, la sua persona è tutt'altra cosa. Ho visto tante stranezze in lui. E se volete che vi dica ciò che ne penso, vi risponderei che lo considero come uno degli eroi di Byron. Sì, che la sventura ha marcato col suo sigillo fatale. Uno, insomma, di quegli avanzi di antica famiglia che, diseredati della fortuna paterna, se ne sono procurata un'altra con la forza del loro genio di avventurieri che li ha posti al di sopra delle leggi e della società.» «Quindi dite...» «Dico che Montecristo è un'isola in mezzo al Mediterraneo, senza abitanti, senza guarnigione, asilo di contrabbandieri di tutte le nazioni, di pirati di tutti i paesi. Chissà che questi degni trafficanti non paghino al loro signore il diritto di asilo.» «È possibile», disse la contessa pensierosa. «Ma non importa», riprese il giovane. «Contrabbandiere o no, ne converrete, madre mia, perché l'avete visto. Il signor conte di Montecristo è un uomo notevole, e avrà i più grandi successi nei salotti di Parigi. E questa mattina da me ha iniziato il suo ingresso in società, destando in tutti ammirazione, perfino in Chateau Renaud. E che età potrà avere il conte? Chiese Mercedes, attribuendo visibilmente grande importanza a questa domanda. Avrà 35, 36 anni, madre mia. Così giovane è impossibile, disse Mercedes, rispondendo contemporaneamente a ciò che le diceva Albert e a ciò che le diceva la sua mente. Eppure è la verità. Tre o quattro volte mi ha detto, e certamente senza premeditazione. Alla tale epoca avevo 5 anni, alla tal altra 10 o 12. L'età di questo uomo singolare, che non ha età, è dunque, ne sono sicuro, 35 anni. E inoltre, ricordatemi, madre mia, quanto è vivace il suo sguardo, come sono neri i suoi capelli e come la fronte, sebbene pallida, sia priva di rughe. Non solo egli è vigoroso, ma è anche giovane. La contessa abbassò il capo come sotto un'onda troppo pesante di pensieri dolorosi. «E quest'uomo ha stretto amicizia con voi, Albert?» domandò con un tremito nervoso. «Credo di sì, signora». «E voi? Lo amate anche voi?» «Egli mi piace, signora. Che ne dica Franz d'Épinay, che lo voleva far comparire ai miei occhi come un uomo uscito dall'oltretomba?» La contessa ebbe un brivido di terrore. «Albert», disse con voce alterata, «io vi ho sempre messo in guardia dalle nuove conoscenze. Ora siete un uomo e potreste dar consigli a me, tuttavia vi ripeto, siate prudente, Albert». «Bertuccio», chiese il conte di Montecristo, «non mi avete detto una volta di aver viaggiato in Francia?» «In alcune parti della Francia, sì, eccellenza». «Conoscete i dintorni di Parigi?» «No, eccellenza, no», rispose l'intendente con una specie di tremito nervoso che Montecristo, grande conoscitore in fatto di emozioni, attribuì con ragione a una viva inquietudine. «Mi rincresce che non abbiate visitato i dintorni di Parigi, perché questa sera stessa voglio vedere la mia nuova proprietà e se venite con me mi darete senza dubbio utili informazioni». «A Auteuil!» gridò Bertuccio, il cui viso color rame divenne quasi livido. «Io? Andare a Auteuil? Ebbene, che c'è di strano se venite ad Auteuil? Quando abiterò ad Auteuil bisognerà bene che ci veniate, poiché fate parte della famiglia». In 20 minuti furono ad Auteuil. L'emozione dell'intendente aumentava sempre di più. All'entrata nel borgo, Bertuccio, rannicchiato in un angolo della carrozza, cominciò a guardare con un'emozione febbrile tutte le case davanti alle quali passavano. «Fate fermare a Rue Fontaine 28», disse il conte. La carrozza si fermò. Lo stalliere si precipitò allo sportello, che aprì. «Prendete un fanale della carrozza, Bertuccio, e fatemi vedere gli appartamenti», disse il conte. L'intendente obbedì senza dire nulla, ma era facile capire dal tremito della mano che portava il fanale quanto gli costasse obbedire. Percorsero un pian terreno molto vasto, un primo piano composto di un salone, di una stanza da bagno e due camere da letto. Attraverso una di queste stanze giunsero ad una scala a chiocciola che andava a finire nel giardino. «Guardate, una scala interna», disse il conte. «Ci fa molto comodo. Fatemi luce, Bertuccio, andate avanti e vediamo dove ci condurrà». «Signore», disse Bertuccio, «porta al giardino». «E come lo sapete?» «Credo sia così». «Ebbene, assicuriamocene». Bertuccio emise un sospiro e andò avanti. La scala portava effettivamente in giardino. Alla porta esterna l'intendente si fermò. «Andiamo dunque, Bertuccio!» disse il conte. Ma Bertuccio era stordito, instupidito, annientato. Gli occhi stravolti cercavano intorno a sé le tracce di un passato terribile e con le mani irrigidite cercava di allontanare dei ricordi spaventosi. «Ebbene!» insistette il conte. «No, no!» gridò Bertuccio, posando il fanale in un angolo del muro interno. «No, signore! Non andrò più avanti! È impossibile!» «Sarebbe a dire!» articolò la voce imperiosa di Montecristo. «Vedete bene, signore, che è strano!» gridò l'intendente. «Che dovendo comprare una casa a Parigi, voi la compriate proprio ad Auteuil, e che comprando la Auteuil, questa casa sia precisamente il numero 28 di Rue Fontaine! Perché mai non vi ho detto tutto laggiù, signore? Voi certamente non mi avreste ordinato di seguirvi. Io speravo che la casa del signor conte fosse un'altra. Possibile che non ci sia altra casa in Auteuil che quella dell'assassinio?» «Oh, oh!» disse Montecristo fermandosi. «Che orribile parola avete pronunciato! Diavolo d'uomo! Corso arrabbiato, sempre superstizioni! Vediamo, su! Prendete questo fanale e visitiamo il giardino, con me. Spero che non avrete paura». Bertuccio raccolse il fanale e obbedì, ma tentava di piegare sulla sinistra. «Perché seguire il viale?» chiese Montecristo. «C'è un bel praticello, su, andiamo, dritto!» Bertuccio si asciugò il sudore che gli bagnava la fronte, ma obbedì. Ciò nonostante, continuava a tenersi sulla sinistra. Montecristo, al contrario, piegava a destra. Giunto vicino ad un gruppo di alberi, si fermò. L'intendente non poté trattenersi. «Allontanatevi, signore! Allontanatevi, vi supplico!» gridò. «Siete proprio sul posto!» «Quale posto?» «Sul posto dove è caduto!» «Credo che stiate ammattendo, signor Bertuccio!» disse freddamente il conte. «Signore!» disse l'intendente. «Pare che sia una specie di fatalità a muovere tutto questo. Ne sono proprio sicuro. Per prima cosa, comprate una casa ad Auteuil. E questa casa è precisamente quella dove ho commesso l'assassinio. Poi scendete nel giardino. E giusto per la scala per cui lui discese. E vi fermate proprio nel luogo dove ricevette il colpo. E a due passi da quest'albero c'era la fossa dove aveva seppellito il bambino. Tutto ciò non può essere opera del caso, perché assomiglierebbe troppo alla provvidenza». «Ebbene, signor Corso, supponiamo sia la provvidenza. D'altra parte, bisogna saper fare delle concessioni agli spiriti ammalati. Su, ritrovate il vostro buonsenso e raccontatemi tutto». Le cose risalgono al 1815. Abitavamo nel piccolo villaggio di Rogliano, vicino a Capo Corso. Avevo un fratello maggiore che era al servizio dell'imperatore. Era sottotenente in un reggimento composto tutto di corsi. Un giorno ricevemmo una lettera. Era di mio fratello, il quale diceva che l'esercito era stato congedato e lui ritornava per la via di Châteauroux, Le Puy e poi Nîmes, e che se avevo danaro glielo inviassi a Nîmes presso un locandiere di nostra conoscenza con il quale avevo qualche relazione. Contrabbandiere, aggiunse il conte. Mio Dio, bisogna pur vivere. Certamente, certamente. Continuate dunque. Io amavo teneramente mio fratello, per cui decisi di non inviargli il denaro, ma di portarglielo io stesso. Possedevo 1 migliaio di franchi, ne lasciai 500 ad Assunta, mia cognata, presi gli altri 500 e mi misi in viaggio per Nîmes. Erano i giorni in cui accadeva il famoso massacro del mezzogiorno. 2 o 3 briganti chiamati Trestaillon, Truffemy e Granfond scannavano sulle strade tutti quelli che credevano bonapartisti. Entrando a Nîmes, si camminava letteralmente nel sangue. A ogni passo si incontravano cadaveri. Gli assassini, ordinati in bande, uccidevano, saccheggiavano, bruciavano. Alla vista di tanta carneficina mi prese un tremito. Non per me, io, semplice pescatore corso, non avevo da temere, ma per mio fratello, sì, soldato dell'impero, che ritornava dall'esercito della Loira con la sua uniforme, le spalline, c'era da temere. Corsi dal nostro albergatore. I miei presentimenti non mi avevano ingannato. Mio fratello, giunto il giorno prima a Nîmes, era stato assassinato proprio alla porta di quello cui andava a chiedere ospitalità. Feci il possibile per conoscere gli assassini, ma nessuno osò dirmi i loro nomi, tanto erano temuti. Pensai allora alla giustizia francese, di cui mi era stato tanto parlato e che nulla teme, e mi presentai al procuratore del re. E questo procuratore del re si chiamava Villefort? Chiese con indifferenza Montecristo. Sì, eccellenza, veniva da Marsiglia, dove era stato sostituito. Il suo zelo gli aveva procurato l'avanzamento. Era stato uno dei primi, si diceva, ad annunciare al governo lo sbarco dall'isola d'Elba. Dunque, riprese Montecristo, vi presentaste a lui? Signore, gli dissi, mio fratello è stato assassinato ieri nelle strade di Nîmes. Non so da chi, ma è vostro compito saperlo. Voi siete qui il capo della giustizia e spetta alla giustizia vendicare quelli che non ha saputo difendere. E cos'era vostro fratello? Domandò il procuratore del re. Sottotenente nel battaglione Corso. Un soldato dell'imperatore, allora? Un soldato dell'esercito francese. E che volete che faccia? Rispose il magistrato. Te l'ho già detto! Voglio che lo vendichiate! E di chi? Dei suoi assassini! Li conosco io? Fateli cercare! Per farne che? Vostro fratello avrà avuto qualche lite e si sarà battuto in duello. Tutti questi vecchi soldati cadono in eccessi, che andavano bene sotto l'impero, ma ora finiscono male. Adesso le nostre genti del mezzogiorno non amano né i soldati né gli eccessi. Come, signore? Gridai io. È mai possibile che parliate così? Voi, magistrato! Tutti questi corsi sono pazzi, rispose Villefort. Credono ancora che il loro compatriota sia imperatore. Ebbene, gli dissi sottovoce, poiché conoscete tanto bene i corsi, dovete sapere in che modo mantengono la loro parola. Vi giuro una cosa, che vi ammazzerò. Da questo momento vi dichiaro vendetta, per cui cautelatevi bene e guardatevi come meglio potrete, poiché la prima volta che ci ritroveremo faccia a faccia sarà segno che è giunta la vostra ultima ora. Detto ciò, ancor prima che si fosse rimesso dalla sorpresa, aprì la porta e fuggì. Villefort fu preso dalla paura, temette di restare oltre a Nîmes. Sollecitò un trasferimento e, siccome era realmente una persona influente, si fece nominare a Versailles. Per 3 mesi lo spiai. Finalmente scoprii che veniva di nascosto ad Auteuil. Lo seguii e lo vidi entrare nella casa dove ora ci troviamo.